Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Expo, parliamo di alimentazione, parliamo dei problemi dell'agricoltura. Parliamo di queste cose con Davide Tentori. Buonasera Tentori. Buonasera dottor Fabi, grazie per avermi invitato. Davide Tentori ha scritto insieme ad Andrea Martire il libro Le provocazioni di Expo, la salute del pianeta nelle mani del consumatore, ma è anche tra i responsabili del Caffè Geopolitico, che è un sito internet, poi adesso ci spiegherà che cos'è realmente, da cui appunto è nato questo libro. Allora, iniziamo dal Caffè Geopolitico. Cos'è questa iniziativa, Tentori? Sì, guardi, il Caffè Geopolitico è innanzitutto un'associazione culturale che è nata nel 2010 da un'idea, diciamo, di un gruppo di originariamente di studenti della Facoltà di Scienze Politiche della Cattolica di Milano, di cui appunto io facevo parte, insieme ad altri amici con cui abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza, fondando questa associazione che praticamente si concretizza soprattutto in un sito internet che è una rivista online che si occupa di geopolitica, di esteri, di relazioni internazionali. Praticamente noi volevamo parlare di questi temi, era che fosse semplice, accessibile a tutti, non con un linguaggio da addetti ai lavori, avendo la constatazione del fatto che in Italia c'è una sorta di gap di informazione su questi temi. Quindi abbiamo aperto questo sito internet che nel corso degli anni si è via via diciamo sviluppato, interessando diversi collaboratori sia in Italia che all'estero. Per dare giusto qualche numero, abbiamo circa una cinquantina di collaboratori attivi, quasi tutti under 35, un consiglio direttivo di 10 persone. Okay. E siamo appunto contenti di come si sta sviluppando, seppur con piccoli passi, questa nostra iniziativa. Ecco, ricordiamo allora l'indirizzo di questo sito, www.ilcaffegeopolitico.org. E quindi su questo sito si possono trovare commenti di attualità, soprattutto sui temi appunto di politica generale, di politica internazionale o anche su altri temi. Sì, ci occupiamo soprattutto ovviamente di politica estera, sia da un punto di vista delle questioni più prettamente politiche, ma anche economiche o di strategie di difesa, di ambiente. Abbiamo anche degli articoli che si occupano di tematiche sociali, di diritti umani, insomma cerchiamo di affrontare queste dimensioni con uno spettro il più ampio possibile. Ecco, e da questa esperienza è nato questo libro, lo ricordo, Le provocazioni di Expo, la salute del pianeta nelle mani del consumatore, edito da In Dialogo, ma probabilmente è un libro che si potrà trovare anche in forma elettronica. Sì. Il libro appunto è disponibile sia attraverso i canali, diciamo, di vendita classici, quindi nelle librerie, ma anche si può scaricare dal sito proprio della casa editrice In Dialogo, così come i principali, diciamo, siti che si occupano di vendita di libri, di pubblicazioni. Ecco, quindi nel momento dell'Expo un libro che analizza e approfondisce i temi dell'Expo, tra l'altro ha una prefazione di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto Negri appunto spiega che questo libro è dedicato soprattutto alla sicurezza alimentare, ma sicurezza alimentare che non è solo un problema di salute ma anche quella di distribuzione, un problema legato anche alla situazione politica in cui si trovano le singole parti di questo nostro complicato mondo. Alberto Negri ricorda soprattutto in Medio Oriente i conflitti laceranti in Siria, in Libia, in Iraq, che provocano anche delle conseguenze molto forti sul fronte delle possibilità di queste popolazioni di avere di vedere rispettati i propri bisogni essenziali. Allora, guardando un po' a questo libro, possiamo dire in poche parole com'è la salute del mondo sotto la prospettiva della sicurezza alimentare. Davide Tentori. Sì, dunque, la salute del mondo sicuramente potrebbe essere, diciamo, in una situazione migliore di quella attuale. Detto ciò, non dobbiamo farci ingannare, diciamo, dai numeri, perché nonostante ci siano purtroppo 800 milioni di persone denutrite e 2 miliardi di persone malnutrite, quindi comprendendo in questo numero anche per esempio le persone obese che vivono nei paesi, nelle economie più sviluppate come la nostra, come insomma nei paesi occidentali, in realtà è il problema soprattutto di efficienza nella gestione, nella distribuzione delle risorse agricole e alimentari. Infatti con le risorse attualmente a disposizione sarebbero sufficienti per sfamare l'intera popolazione mondiale. Il problema dunque è da un lato di efficienza nella produzione e nella distribuzione, il che appunto risente anche, come diceva lei, di questi problemi legati all'insicurezza e alle guerre in alcune regioni come il Medio Oriente, ma anche in altre parti del mondo. Dall'altra anche di problemi di cui noi stessi siamo responsabili, per esempio pensiamo alla dimensione dello spreco alimentare che raggiunge livelli veramente eccessivi. Temi su cui si stanno concentrando anche organizzazioni internazionali come non soltanto le Nazioni Unite ma anche il G20, che è il forum che raccoglie le 20 economie più sviluppate del pianeta e che ha messo tra i temi nell'ambito del suo lavoro sulla sicurezza alimentare proprio la tematica dello spreco come il problema principale da affrontare negli anni a venire. Ecco, quindi l'Expo è un elemento che ha anche portato alla ribalta questi temi. Come possiamo giudicare a metà strada di questo Expo gli obiettivi che l'Expo voleva raggiungere? Siamo sulla strada giusta? Ha portato comunque a una riflessione su questi temi? Sì, dunque, diciamo che un giudizio complessivo sicuramente potremo esprimerlo alla fine, ma soprattutto anche nei mesi e negli anni a venire, perché quello che secondo noi è più importante è che Expo innanzitutto la gente capisca di cosa si tratta esattamente e che non è ovviamente non deve essere una fiera del cibo, delle tradizioni enogastronomiche dei vari paesi intervenuti, ma deve essere soprattutto una piattaforma per favorire il dialogo tra le varie soluzioni che i paesi partecipanti propongono al problema della sicurezza alimentare. Quindi in questo senso direi che sicuramente si può valutare in maniera positiva, se non altro il contributo che Expo ha saputo dare nel mettere questi problemi sotto i riflettori. E poi sicuramente bisognerà fare in modo che questo dialogo non venga meno nei prossimi anni, ma anche grazie ad appuntamenti come la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell'ONU, la conferenza di Parigi sul clima che si terrà a dicembre. Tutti questi appuntamenti siano in grado di dare dei contributi importanti che possano essere poi proseguiti e a cui che possano dare dei frutti importanti nei prossimi anni. Ecco, una prospettiva che emerge in questo libro è quello che dobbiamo attenderci solo qualche decisione politica ad altissimo livello, ma un cambiamento dipende anche dalle scelte di ciascuno di noi, dalla responsabilità di ciascuno di noi di fronte a questi temi. Ecco, è una prospettiva che è emersa nelle ultime settimane anche dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, una enciclica non solo ecologica, ma un'enciclica dedicata soprattutto alla responsabilità personale in questo ambiente umano, in questo ambiente del pianeta che va sì salvaguardato ma che va anche valorizzato. Ecco, ovviamente il vostro libro, ricordo, scritto da Davide Tentori insieme ad Andrea Martire, è stato scritto prima dell'enciclica. In fondo il Papa si è un po' ispirato da voi? Beh, su questo insomma non vorrei dirlo, sarebbe presuntuoso, però qualora avesse letto il nostro libro sarebbe senz'altro un grandissimo onore. Diciamo che sicuramente ci sono una prospettiva, un approccio in un certo qual modo simile, nel senso che anche noi, come l'enciclica appunto del Santo Padre ha saputo fare in maniera molto molto chiara, vogliamo mettere in luce come non si tratti di problemi soltanto a livello macroeconomico, a livello globale, che sono lontani dalla realtà quotidiana di ciascuno di noi, ma anzi sono dei problemi che ci riguardano talmente da vicino che anzi un cambiamento dei comportamenti individuali può veramente fare la differenza a livello aggregato. Ecco, mi riferivo poco fa al tema dello spreco. Se adottassimo abitudini differenti su questo versante, ma anche su altri fronti, come ad esempio anche quello del consumo, prendendo in considerazione altre modalità di acquisto che possono essere più sostenibili, ovviamente compatibilmente con la possibilità di spesa di ciascuno, quantomeno se tutti acquistassimo consapevolezza delle problematiche e delle conseguenze che i nostri comportamenti provocano, allora sicuramente a livello aggregato ci potrebbero essere dei risultati molto positivi per la sostenibilità del pianeta e per dare da mangiare a tutte le persone di questo, insomma, che abitano il mondo. Ecco, senza dimenticare appunto che il problema è personale, anche perché uno dei temi dell'Expo, i temi dell'educazione alimentare, è quello della lotta all'obesità, che è uno dei problemi che, al contrario della malnutrizione, però provoca nelle società occidentali, provoca danni anche irreversibili alle persone. Ed è forse significativo che le conclusioni di questo libro si intitolano La sfida di Expo, cambiare il mondo dal basso, cioè anche questa è un richiamo appunto alla responsabilità delle persone, che dal basso si possono fare tante cose e anche ogni singola persona, ogni singolo gesto può, moltiplicato ovviamente con i gesti di tutti gli altri, portare non solo un esempio significativo, ma anche un cambiamento concreto nella prospettiva anche di rispetto dell'ambiente, di rispetto dell'ecologia, della salvaguardia, della valorizzazione di questo nostro mondo, che in fondo è l'unico che abbiamo. Davide Tentori. Certo, infatti, come dicevo, sono praticamente due facce della stessa medaglia. Da una parte queste grandi questioni globali affrontate dai leader del pianeta che si ritrovano, dall'altra però anche questi gesti che se non partono da una nostra maggiore consapevolezza, da una nostra responsabilizzazione, non potranno mai in fondo portare ad una sostenibilità maggiore del pianeta. Nel 2050 saranno 9 miliardi sulla superficie terrestre. Dobbiamo quindi agire sin d'ora per cambiare la nostra, diciamo, il nostro approccio ad un uso più sostenibile delle risorse, che fare tramite innanzitutto un'informazione più approfondita e consapevole. Ecco, un'informazione più approfondita e consapevole, questo è l'obiettivo di questo libro e anche del sito Il Caffè Geopolitico, con cui abbiamo parlato con Davide Tentori questa sera. Grazie a Davide Tentori. Ricordo il suo libro Le provocazioni di Expo, la salute del pianeta nelle mani del consumatore, in dialogo editore, sono 144 pagine per €11,90. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.